Benvenuti a Cialtroni nello spazio, puntata numero 10, quasi in sincronia stavolta. Allora, puntata numero 10, anno 2006, edizione di Cialtroni nello spazio, come ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, attorno alle 12.40 fino attorno alle 13.15. Cos'è Cialtroni nello spazio, Marco? Informatica, musica, tutto sempre sotto la guida, che devono essere informazioni libere e quindi distribuibili liberamente. Più o meno è una definizione. Per saperne di più di Cialtroni nello spazio quando non siamo in onda, potete andare a visitare il sito radio.circolab.net oppure spazio.circolab.net, che è la stessa cosa. E di che cos'è il Circolab ne parleremo nelle prossime puntate, per chi non lo conoscesse, perché in questo momento non esiste. Ma vediamo la puntata di oggi, scaletta di che cosa andremo a parlare. Ci saranno un po' di news e poi presenteremo il WinPen Pack, ovvero una suite di programmi gratuiti e liberi che ci stanno su una chiavetta che vi potete portare in giro sempre con voi per avere a disposizione vostra tutto quello che necessitate per le vostre operazioni. A farci da sottofondo sempre i Chemical Brothers Remixed e Alessandro in regia, che non ha ancora salutato, non ha ancora detto nulla perché non si sa. Ciao a tutti. Ok, anche Alessandro è tornato con noi e quindi partiamo con le prime news. Cominciamo con la censura in Cina, uno dei temi che abbiamo affrontato spesso sulle nostre frequenze, un tema che ha portato delle novità, perché recentemente è stato chiuso un altro blog, ma stavolta la chiusura arriva direttamente dalla Microsoft. Marco? Infatti dal nome impronunciabile, però c'è la versione in inglese, questo Michael Anti, che è la traduzione di questo cinese, che ha già visto il suo blog, ovvero sia il suo diario online, chiudere per la terza volta nell'anno. E questa volta però la notizia fa un po' più scalpore, in quanto è un'iniziativa che arriva direttamente dalla Microsoft e non dalla censura governativa cinese. Un background un attimo: come allora, la Cina da sempre non è il posto migliore per i diritti civili delle persone e sta attuando una censura potentissima di tutte le informazioni che girano in internet, e in particolare ha chiesto l'aiuto e l'ha ottenuto di tutte le grandi di tutti i grandi big dell'informatica, a partire sicuramente da Google, che recentemente è stato appunto tacciato di eccessivo collaborazionismo con il governo cinese, ma anche un po' da tutti gli altri motori di ricerca, non è da meno Yahoo, non da meno MSN di Microsoft, la Cisco anche, diciamo tutti i grandi, per poter accedere al mercato cinese devono sottostare alla richiesta del governo cinese, che dice voi dovete censurare quello che vi diciamo noi. E in questo caso la Microsoft ha ben deciso di esagerare nell'asservire a questo compito, questo ordine del governo cinese, partendo di sua iniziativa, andando a censurare il blog di questo attivista che appunto cercava di parlare in particolare del massacro di Tiananmen del 1989. Sì, in realtà, e poi insomma è significativo il fatto che il blog di Anti, un blog è un diario online, era un blog a carattere giornalistico. Una delle ultime notizie, per esempio, negli ultimi giorni era stata la sua difesa dei giornalisti del quotidiano Notizie di Pechino, Beijing News, che in un'iniziativa con pochi precedenti avevano scioperato recentemente contro il licenziamento del loro caporedattore Yang Bing e di due collaboratori del quotidiano. È interessante perché il quotidiano Notizie di Pechino aveva coperto in maniera indipendente due vicende che erano state invece censurate dai media, diciamo così, più filogovernativi, in particolare quella di Dongzhu, un villaggio del sud della Cina dove erano state uccise tre persone da scontri di piazza con la polizia, e anche la vicenda dell'inquinamento del fiume Songhua provocato dalla fuoriuscita di materiale tossico da una fabbrica chimica. E quello che è interessante è la reazione di Anti, che attraverso un altro blog ha fatto sapere che ricomincerà nel 2006, si è scagliato contro il cosiddetto muro di fuoco, cioè il sistema attraverso il quale i migliaia di poliziotti, decine di migliaia di poliziotti cinesi cercano di controllare il flusso di informazioni sulla rete. E appunto Anti ha scritto: arrivano le lunghe notti d'inverno, noi ci stiamo preparando ad una lunga marcia, nel 2006 forse non vinceremo, ma certamente faremo dei grandi passi in avanti. Auguriamoci che questo succeda. E sempre in tema di censura, una notizia meno recente, comunque di un paio di settimane fa, che invece riguarda l'Europa, il Belgio, che sembrerebbe, insomma non è uno di quei paesi che sale alla cronaca per la sua attività di censura, comunque in Belgio è stato censurato questo Jürgen Verstappen. Zamp, secondo te? Verstappen? Non trovo la parola. Jürgen Verstappen. Ok. Gli è stata comminata una multa di 12.500 euro per fondamentalmente trasmissione non autorizzata. Dunque, questo Jürgen Verstappen, senza fare la storia di questo tizio, comunque è opinionista, agitatore politico, esponente del partito regionalista Vlaams Belang. Non abbiamo la più pallida idea di che cosa parli questo tizio, però comunque faceva delle trasmissioni radiofoniche distribuite via internet, una sorta di streaming che, in cui lui parlava, insomma, faceva l'opinionista, esprimeva delle opinioni politiche. Con dei cavilli burocratici l'attività radiofonica è stata interrotta, appunto perché non è stata equiparata a una trasmissione radiofonica normale, quindi in radiofrequenza, per cui è necessaria una licenza, e attraverso questo stratagemma il suo sito è stato bloccato. A parte l'assurdità di equiparare una radio via internet a una radio RF normale, dove fondamentalmente non ci sono... Vedo che non come radio FM, forse volevi dire, non radio RF. RF vuol dire radiofrequenza, quindi okay. Comprende. E soprattutto i miei complimenti al neo ingegnere. L'avevo detto io a Zampa. Sì. Rantone. Comunque è assurdo, perché nella radiofrequenza in generale le frequenze sono limitate, esiste una sorta di limite, dato in internet non c'è questo limite, uno può aprirsi tutte le radio che vuole se ha la banda per poterle sostenere. Comunque l'attivista politico ha già detto che si sposterà su dei server russi da cui proporrà un podcasting con il suo canale di trasmissione, quindi... anche qui si dimostra la stupidità e l'impotenza nei confronti di una tecnologia che è di per sua natura libera. Ecco, lui, diciamo così, è un pirata moderno, di quelli che aprivano negli anni 70 le radio cosiddette pirata, poi si sono spostate via internet. Adesso arrivano altre notizie relativamente ai pirati, Marco. No, in realtà volevo collegarmi a quest'altra notizia che ci sta abbastanza bene. E vabbè. In particolare, appunto, abbiamo visto che questo personaggio, di cui non conosciamo assolutamente nulla, però sappiamo questa sua storia di censura. Mi ha fatto venire in mente questa notizia di una legge americana passata di recente, che fondamentalmente dice che chiunque utilizzi un dispositivo o un software per trasmettere delle comunicazioni allo scopo di disturbare o minacciare colui che riceve questa comunicazione può essere incarcerato fino a un massimo di 2 anni. Questa notizia ci ha lasciato assolutamente perplessi, e è stata inserita in un'altra legge tipo le nostre approvate su, con la fiducia, per cui non è stato possibile nemmeno discuterla in Parlamento, per cui ed è stata voluta appunto dal governo, dal governo Bush, e in particolare va, cioè, non si capisce molto bene il senso, in quanto chiunque potrebbe essere addirittura messo in carcere per aver mandato una mail magari di insulti, o ma neanche di insulti, semplicemente con lo scopo di rompere le scatole. E... cioè, diciamo che il tentativo di equiparare le email alla telefonata notturna fastidiosa o le minacce che vengono fatte al telefono e far passare il mezzo telefonico come il mezzo delle email è assolutamente privo di senso, e chiunque frequenti, utilizzi un po' messaggi pubblici o comunque raccoglitori di messaggi pubblici come possono essere i forum, i newsgroup, ma le stesse chat, si rende conto che le cosiddette flame war, cioè gli insulti, gli scambi anche abbastanza pesanti, sono effettivamente molto presenti, ma anche per lo più innocui. È abbastanza assurdo paragonare una telefonata di minaccia di morte o una telefonata di minaccia sessuale ricevuta in piena notte al proprio numero di telefono, quindi qualcuno che sa effettivamente dove abiti, a un messaggio che viene mandato qualcuno via internet a qualcun altro che magari non sai né dove abita né comunque c'è il rischio fisico per la persona. Comunque questo dà come risultato una botta abbastanza pesante alla libertà di espressione di una persona su internet. Ricollegandolo anche alla news di prima, il tizio adesso, se fosse americano, potrebbe essere sbattuto in carcere perché ha utilizzato dei mezzi e dei dispositivi software allo scopo di disturbare o abusare di... In realtà voleva fare informazione, non stava disturbando nessuno, però lo so, però no, adesso è potuto nella legge c'è, cioè, appunto questa si evidenzia appunto la vaghezza di questa definizione, sì, certo, di disturbo, che beh, in realtà nella sentenza che ha comminato la multa di 12.000 euro, era espresso appunto il giudizio di pericoloso per la sicurezza del Belgio, quindi diciamo che siamo più sull'aspetto sicurezza nazionale rispetto alla sicurezza privata. Comunque sì, è ovvio, c'è sempre un peso eccessivo per chi fa dell'informazione indipendente, questo sì. Una notizia che invece abbiamo arrivata da pochissimo, arriva direttamente dagli Stati Uniti, abbiamo preso da un articolo sul New York Times da John Markoff, che parla di un nuovo ufficio, una nuova collaborazione tra l'ufficio dei brevetti americano con una serie di diciamo così aziende e compagnie che in un qualche modo sostengono anche il software open source, tra cui IBM, Red Hat e Novell, alcune università e anche appunto l'ufficio dei brevetti. Ci sarà una sorta di collaborazione tra queste entità per costruire in maniera diversa diciamo una sorta di collaborazione sul tema dei brevetti. Uno degli scopi è sicuramente quello di cercare di alzare la qualità dei brevetti software. Mi faccio un esempio: cercare di impedire ad esempio alcune proposte deliranti come quelle che erano state fatte, che qualcuno avrebbe potuto brevettare il doppio click, o è stato brevettare... fatto, non è stato sì, non era un'ipotesi, diciamo, sono state brevettate, poi per fortuna non sono state accettate perché col Parlamento europeo era stata non era passata quella direttiva sulla brevettabilità questa in del Europa software, negli Stati Uniti invece questi brevetti sono validi. Ok, ecco, Quindi uno dei motivi può essere quello di è sicuramente quello di cercare di alzare il livello dei brevetti e creare almeno dei brevetti che abbiano una certa cognizione di senso. D'altra parte è un po' preoccupante vedere chi c'è dietro questa costruzione, ovvero l'ufficio brevetti americano e alcune aziende come la IBM, che sono quelli che hanno tutto da guadagnare. Basta pensare che la IBM, nonostante supporti l'open source, nel 2004 aveva brevettato, aveva depositato 3248 brevetti, nel 2005 ne ha brevettati 2941, quindi insomma erano una delle più grandi, la più grande anzi diciamo così, brevettatrice di tutto il settore privato americano, e non è poco. Quindi da un certo punto di vista sapere che c'è dietro IBM insieme all'ufficio brevetti non fa pensare benissimo. D'altro canto potrebbe essere effettivamente anche una strada per creare almeno dei brevetti che abbiano un minimo di senso, facilitando anche la ricerca all'interno dei brevetti precedenti, per cercare di capire se non si va a violare alcuni altri brevetti, o se qualcosa magari è stato diciamo così anche brevettato open source in un certo senso, diciamo un altro rilasciato come open source. Un'altra questione è appunto quella della del fatto che un brevetto meno sia già patrimonio pubblico, diciamo, di dominio pubblico, per cui un'azienda come la Microsoft che decide nel 2005 di brevettare il doppio click, quando il doppio click è stato inventato da quelli della Xerox PARC nel 1970 e qualcosa, insomma, sono situazioni abbastanza strane. Qui la notizia l'abbiamo data così, in definitiva non hanno ancora concluso molto, siamo un po' preoccupati, però vediamo cosa succede. Vedremo cosa succederà, insomma. E adesso un brano musicale, sempre tratto dal sito indiesce.com, che avevamo segnalato la settimana scorsa per il suo progetto 356cc. E il brano di oggi è di Eufaun, non ho idea di come si legga, non so nemmeno che lingua è, e il brano si intitola Bis. Thank you. E torniamo a parlare di news. Abbiamo parlato nelle settimane scorse diverso tempo della patch che mancava di Microsoft per i file WMF, cioè i file, diciamo così, grafici, ma in realtà che non sono tanto grafici, ma sono una vera sequenza di esecuzione di programmi che ricostruisce tramite formule matematiche i file grafici, vi fa vedere l'immagine, che quindi è stato sotto attacco. È stata trovata una falla che permetteva di eseguire del codice, di eseguire dei programmi sul vostro computer qualora queste immagini fossero infette. Ecco, finalmente è uscita la patch di Microsoft e guarda caso la patch della Microsoft è assolutamente identica alla patch non ufficiale che vi avevamo segnalato una decina di giorni fa, la settimana scorsa. La patch non fa altro che rimuovere il comando problematico, il comando, diciamo così, che serviva a una sorta di controllo dell'errore strano, che funzionava in una maniera strana perché diceva: se va storto qualcosa fai quanto segue, e quindi permetteva di creare degli errori apposta per far eseguire dei codici. La patch quindi si comporta esattamente uguale a quella di Ilfac Guilfanov, quello che l'aveva creata insomma in poche ore e poi aveva fatto un po' di test. Ovviamente Microsoft doveva fare sicuramente dei test maggiori rispetto a quanto aveva fatto questo programmatore, ma non si giustifica assolutamente il ritardo di decine di giorni in cui questa patch poteva potenzialmente infettare e comunque creare dei problemi a milioni di computer. E anche Microsoft non ha fatto altro che disabilitare setabort e si può, insomma, controllare tranquillamente per chi fosse degli smanettoni, andare a vedere che cosa succede. Una cosa carina da notare è che la falla di questi file funzionava e funziona tuttora, perché non è risolta dalla patch Microsoft ovviamente, per coloro che utilizzano Wine, ovvero un programma di emulazione che permette di eseguire dei software Windows sulla piattaforma Linux o su altre piattaforme. E per chi utilizzasse, per esempio navigasse in internet tramite Wine, non capisco perché qualcuno dovrebbe farlo tramite Linux, o comunque qualcuno che utilizza dei programmi di diciamo così gestione delle immagini tramite Linux e emulando i programmi della Windows, di Windows, è ancora in pericolo, perché ovviamente Wine non ha ricoperto questa falla. Penso che tra l'altro sia uscita oggi una versione di Wine che corregge, penso, anche questa falla. Sì? Quindi. Ah, questo non lo sapevo. Ok. The time's come to push the button. E ritorniamo in Europa e parliamo del nuovo partito che sta per nascere in Svezia, il Partito dei Pirati. Dove cavolo è scritto? Il Pirate Partiet, appunto, ha nel suo programma elettorale pochissimi semplici punti, che sono: no alle leggi internazionali che rendono possibile alle grandi corporation di far valere i propri diritti di proprietà intellettuale ben oltre ogni buon senso. Un altro punto del programma è il rifiuto della data retention, ovvero sia della conservazione dei dati degli utenti, che sulla carta sarebbero fatti a scopi antiterrorismo, mentre invece nella realtà vengono utilizzati per combattere appunto i sistemi di peer-to-peer. Inoltre, ignorare le direttive fornite dal WTO e dal WIPO, che tendano a ostacolare il libero flusso delle informazioni. Questa singolare compagine politica, formazione politica, appunto, sta nascendo in questi giorni proprio in Svezia, e mirano a raggiungere lo sbarramento del 4% e per poter prendersi dei posti nelle prossime elezioni, dei seggi nel Parlamento, nelle prossime elezioni politiche di novembre, se non sbaglio, settembre, non lo riesco a vedere. Dovranno raggranellare 225.000 voti e chissà che non ci riescano, anche considerando quanti sono gli utenti svedesi che utilizzano il peer-to-peer. Allora, per le news, per quanto riguarda le news, oggi è tutto, ma Alessandro ha ancora qualcosa da segnalarci, non si tratta di news stavolta. Allora, è un progetto che si chiama Win Pen Pack. Il sito è www.winpenpack, scritto col ck finale.com. È un sito, nonostante l'estensione.com, è un sito in italiano. È una raccolta di software che è possibile mettere su una penna USB, di quelle che si attaccano dietro al computer. Esistono tre versioni, da 128, 256, 512 mega. Sono una serie di software che è possibile eseguire direttamente dalla penna. I software sono tutti open source, quasi tutti open source, tranne alcuni che sono in licenza gratuita o gratuita per l'uso personale. Molto interessante perché ci sono, la maggior parte dei software sono open source e sono anche quelli più interessanti. Per esempio, esiste la versione portatile di GIMP, nella versione 2.2, l'Inkscape di cui abbiamo parlato, il Firefox, Thunderbird, ma anche cose un po' più ricercate o complicate. Esatto, allora ci sono cose un pochino più specifiche, come ad esempio RAT DVD, che permette di fare l'estrazione dei DVD, ma anche cose di uso comune come OpenOffice. E 2.0, una delle ultime versioni di OpenOffice in italiano, che è possibile eseguire direttamente dalla chiavetta. Per cui, se l'utilità di queste, tutto il software è naturalmente per Windows, l'utilità di questo progetto è che se uno si prepara una chiavetta con il software che più utilizza, può andare in qualsiasi internet point ed utilizzare questo software senza bisogno di, ovviamente, di installarlo, cosa che non può fare un internet point, ma nemmeno senza rinunciare al software e utilizzando solo quello proposto all'internet point, che spesso non è un granché, lascia desiderare. Altre cose interessanti: esiste la versione portabile di ClamWin, che è un antivirus open source. Altre utility che possono essere utili per l'amministrazione del sistema, e che, quindi in particolare quando il sistema è instabile o così via, esiste un tool di emergenza e un po' di altro software. Comunque il sito è interessante proprio anche per l'elenco che propone, così come spunto per poi andare a vedere invece i programmi completi, comunque da installazione, come funzionano e come sono. È interessante notare come esistano anche diverse versioni, diverse raccolte di software, una per le chiavette più piccole, per chiunque voglia utilizzare poco spazio sulla sua chiavetta, da 128 mega, oppure altre due versioni da 256 e da 512, giusto i conti, 512 mega. Ero abbastanza impressionato per esempio dal fatto che c'è del software didattico, che se dovete litigare tutte le volte con il gestore della vostra, diciamo così, scuola, per esempio, perché dovete chiedere di installare un programma eccetera, e invece lì funziona. Una cosa altra interessante è che sulla vostra chiavetta poi restano salvate le vostre impostazioni, e questa forse è la cosa anche un po' più difficile da realizzare, il fatto che quindi potete impostare in qualche modo i programmi con le vostre preferenze, e poi restano, quindi non è come se dovesse tutte le volte installarlo da capo. Ad esempio la barra di Office, la rubrica di Thunderbird, i bookmarks di Firefox, tutte quelle cose che vengono costruite mano a mano con l'attività quotidiana e di cui si sente la mancanza quando ci si sposta su una macchina che non è la propria. Beh, direi che Thunderbird per esempio è una comodità notevole averla in versione portatile per chi ha due computer, uno a casa e uno in ufficio, e vuol tenersi la posta solo sulla sua chiavetta. Ecco, il limite di questo è ovviamente che tutto il software funziona sotto Windows, quindi non prevede l'utilizzo contemporaneo, dello stesso software, comunque sia su macchine Windows che su macchine Linux. Ma per questo ci pensa Java, che è tanto amato da Marco. Un giorno spiegheremo anche che cos'è Java, adesso invece mi sembra che siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata. Sì, direi di sì, per cui... Sigla. E finisce anche la decima puntata di Cialtroni nello Spazio. News e consigli dal mondo dell'elettronica, dell'informatica e dell'open source, del software libero torneranno per voi la settimana prossima. Se vi siete persi qualcosa di questa puntata e volete riascoltarci, potete farlo al sito spazio.circolab.net. Se invece volete il link o qualche riferimento agli articoli che abbiamo messo, potete andare su sempre lì dove trovano sia le puntate che gli argomenti, e soprattutto trovate il link per inviarci informazioni oppure richieste o commenti, quello che volete. La nostra email, che è radio@numerica.org. Scriveteci.